Vabbè, sì, adesso mi cambio il coso. Stamattina mi sono agganciato al pilastro, va a far culo della tettuia e mi si è di nuovo saccato. Infatti poi sono andato a misurare, mi ha scritto errore, sensore, cambiarlo, va a far culo. Insomma lo cambio, scaricato i dati. Asco, ma questa radio che c'hai perché così sacco? Ma non può essere sacco, questo è il... Abbasso letto, il macchino è già, non c'è niente attaccato neanche. Guarda, vedi che ha abbassato il macchi gain. Adesso va bene. Magari è troppo macchi gain c'era, boh. Guarda che lo aumento di nuovo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vedi un po'. No, non lo sta facendo, deve essere lì, troppo vicino col microfono. Adesso sono 5 dita di distanza, capito? 5 dita di distanza. Adesso dopo mi tolgo il sensore e lo smonto, vedi come fa. C'è un cappello sempre, non è un ago, è un cappello. Quello sì, no, dentro voglio vedere come è fatto. Quello già l'ho visto in un video come di cosa c'è, quella specie di cosa. Kappa, no, volevo vedere dentro cosa c'era. Mi chiedo che c'è cosa dei patrimoni, ma. Intanto da un pazzo. Ho capito, ma se tu lo tocchi magari ti fa male. Ah, ci sarà elettronica dentro sicuramente, no? Cara, guardati quei video di quello che stavamo parlando prima, o già, io me l'avevo costruito, una cazzata, capito? Infatti lo stavo dicendo anche con Franco, perché anche lui non lo conosce. Fai tu cazzo, sta bello, lo costruiamo, ci mettiamo e prendo, basta che prendo il materiale, te lo faccio io, non c'è problema. Ed è un sacco divertente in estate e in inverno soprattutto, capito? Papa, dai già, ci sentiamo dopo e vado a togliermi questo qua, il sensore, e preparo l'altro. Ma non sono arrivati i video. Di cosa? Video. No, ho detto, guardati dei video che ci sono su YouTube, capito? Di quella roba lì. Io ho detto, ma sono autocostruito. Una cazzata, capito? Certo, devi avere un terrazzo perché devi usare l'irrigatrice, eccetera, eccetera. Però se tu riguardi quanto rivendono, dai 70 a 150 euro, capito? Usato 70 euro, 60, nuovi costano 150, 200, capito? Già pronti con travo e tutto. A dopo. Artigianali. Sì, li costruiscono, li vendono anche, già pronti. Te lo danno con trave, le esche, tutto, già pronto. E viene un centinaio di euro, 100, 120, dipende quante esche ci vuoi anche, tutto. Ma esche finte? Sì, vabbè, artificiali, dalle piumette ai siliconici. Magari funziona. Ah, no, funziona, guardati il video e rimane a bocca aperta di cosa abbigliani. Tra Lecce e spigoli e tutto quanto. A dopo, dai, c'era Natalino prima, perlomeno, ho sentito la portante con la televisione. Oh, se vuole entrare, sono qua. Attento, briciola! Briciola di pane! Poi, briciolino! Vabbè! E bello! Facciamo una cosa, aspetta! C'era Gianni, c'era! C'era come vendi? Montando una cosa! Per carità! No, fa un po' devo andare a lavorare adesso! E quella domani delle pizze è fatta, dai! Adesso dopo me lo preparo, l'impasto. Sai che sei in saturazione? Ho detto preparo l'impasto per domani. Ah, andare a metà di qualche pizza, mamma è male. Ehi, adesso ti mando un menù di... Che bastardo, cazzo. Mette a voi, sono i fagioli. Fammi una cazzo a tuo piacimento. A tuo piacimento. Va bene. Ok, cappa. Gianni, ci sei? A me frutti di mare. A me già. A me frutti di terra. Ciao, Manuel. Ma te ne immaginesi, cazzo bell'amico, cazzo buco. Intanto ci metti un minuto a farle, mi faccio l'impasto, poi per il resto, anche con le cipolle a me va bene. Dai, ci sentiamo, dai, che stanno al lavoro. Oggi sono lì a Piazza Italia. Cosa c'è? C'è la mostra dei quadri oggi. No, non c'è lo spettacolo. Oh, non lo so. Se c'è lo spettacolo sono di salita a vedere. Ma se non c'è nulla. A questo giorno non lo googleate, tutto pieno di spettacoli, complici, karaoke. Vabbè, dai, già ci sentiamo, che sta andando. E io non è, c'è buon lavoro. Vedi i galli, mamma mia. Tu calotti se stai facendo. No, sto smontando quell'affare, aspetta. Siamo andato nel foto del nuovo. Hai visto dove l'ho messo? No. Facile! Una stupidaggine già. Basta, poi c'è lì il foglio illustrativo anche all'interno. Segui quello lì. Ma è una cazzata, capito? È una stupidaggine. Quando lo metti nel braccio devi premere molto forte. No, non devi premere, devi appunto premere e dargli il colpo in modo che si attacchi. Però non senti né dolore né niente, tu. Cioè non ce n'è di ago, è un cappello. Hai visto cos'è? Sì. Adesso lo apro in due, si vede una batteria, aspetta. La batteria è l'accumulatore, sicuramente. E quello forse che dura solo così poco, la batteria forse non dura più di tanto. E a me perché mi si è staccato, se no lo dovevo tenere altri 3 giorni. Mi si è staccato poco fa, non la sapevo che era cara, mi si è agganciata la scala e sono riuscito a staccarlo e stava funzionando. Adesso stamattina al pilastro, come mi sono girato, mi si è agganciata al pilastro dell'altitudine. Infatti sì, non mi misuravo, mi dava errore. Sì, a me mi si è agganciato al cornicione della porta soffitto, quella plastica che c'è nel bagnetto. Si è staccato, poi col caldo questo cerotto un po' ne soffre, ho visto un po' ne soffre col caldo, ricordati di pulire con l'alcol prima di metterlo. Adesso sta aprendo, non è facile aprirlo, anche staccare quella linguetta non è facile, quella dove c'è l'adesivo è dura, ma proprio dura. Ah, io ho staccato bene, vabbè, è perché mi si era agganciato, si cacciarò con un che era attaccato al 100%, così che ho tirato un pochino e si è staccato. Perché non l'ho fatto di come ha fatto. No, sto dicendo quando è nuovo, c'è la linguetta che devi togliere, quella linguetta dove c'è l'adesivo sopra. La linguetta? Ma di quello, la linguetta quella di alluminio, dici, dove c'è lui dentro? Esatto. Ah, lei, l'ho tirata subito, poi ho seguito il coso, la linea, sai che c'è quella riga che devi seguire, l'ho entrato, pac, si è attaccato, ho sfilato, l'ho appoggiato al braccio, gli ho dato, ho spinto e si è attaccato. Che è venuto bene a metterlo, sì. A voglia, hai visto come l'ho messo? Almeno non si vede con la maglietta, c'è la frontale invece che laterale. Tanto mi ha detto il dottore che va bene lo stesso anche qua, dove l'ho messo adesso. Anche se lo metti più giù del tatuaggio va bene. Sì, basta che sia fuori dal tatuaggio in effetti. Ma rimane troppo in basso, si vede. Devo chiedere al dottore se lo posso mettere in faccia, se lo posso mettere in faccia l'ha fatto terno. Anche. Ma se magari la pancia come pieghi rispetto al braccio fa più piega la pancia, capito? Secondo me non va tanto bene. Lo metti di lato, un po' di lato. No, la mia di pieghe ne ha tante, quindi non c'è problema. Comunque hanno inventato una cosa veramente pratica. Va bene inventarsene qualche cosa per passare via bene. Link della marca, no? E digitare la password con l'email e poi lui si connette tramite il cavo, il suo cavo di ricarica stesso che è USB, lo usi per fare. Ho fatto una cartella nel computer, ho messo lì, adesso da lì le mando direttamente al dottore, alla diabetologa, tramite email. Sì. Com'è il grafico? Non è piatto, assolutamente, ci sono dei momenti che era 50, in quel periodo lì non lo capivo, era poi, mentre in questi ultimi giorni anche a 180. Quello se è piatto è raggiunto una cosa ottimale. l'assessamento è proprio della glicemia, capito? Se invece è ballerino vuol dire che c'hai degli smalti di glicemia e quelle possono causare problemi agli organi. Non è facile anche perché vabbè, ho rotto anche il collo, perché il chip è largo quanto è tutto il collo, capito? Proprio giusto, perché quando vai a aprirlo si rompe anche il chip, porca miseria, volevo evitare di romperlo. Vabbè. Sempre vintage, cosa vuoi fare? Un altro ne vuoi fare da questa? Comunque questo direttore ecco, c'è perché ti avvisa quando è finito. Sì, guarda, ti ho mandato la foto. Sì, c'è una batteria piccolina, come quella degli orologi. E giustamente un cervello. Che cosa? Non è che ci sia tanto niente di che, dai, adesso continuo a romperlo bene. E che mala sorte, tra la parte bianca e quella in plastica è saldato bene, porca miseria. Vabbè, che voglio evitare le differenziate. Sì, sicuramente. E quello è tutto plastica, ragazzi. E adesso volevo buttare nel differenziato. Adesso mi sono la batteria. Per se carica ancora questa. Però queste durano un bel batterie. Che ce ne va? Così piccola nulla, vabbè. Per il tester che c'ho, ma il tester c'ha quelle grandi piatte. Ah, te l'hai vista la foto? Sì, manco cosa l'ha rotto con... che se mi dice racchi. No, lo taglierino, sto cercando di dividere le due parti. Sì, si fa male, lascia lì. E non mi rimette l'aria, lo aprivi. Io sto lottando con la macchietta del caffè. Mi fa il caffè dai latte. Non capisco perché mi entra in pressione un bel. A me mi aveva fatto una macchinetta che avevo, certo, quando c'è un caffè pare accedere dall'Etna, infatti non ho più comparato macchinetta del caffè, sempre con la mocca. No, ma io ci riesco, cioè ci riesco, anche l'altra volta mi era successo, ne ho pulito, ne ho smontato la parte di sotto dove c'è quella vite che c'è il filtro, ho smontato quello, l'ho messo a bagno nell'acqua calda e poi l'ho sfregato con una spazzola, quella delle bottiglie, ce l'ho presa e mi si è sturato e poi lo faceva bene, gli ho fatto fare due o tre volte con l'acqua solo, senza caffè e si è sturato. E invece dei latte, invece di tra la mamma del caffè. Mi hai fatto mandato la foto, vedi? C'è il cervello elettronico, che porta batteria, niente di che. Ma il circuito non è proprio. Sì, c'ha un chip. Sì. C'ha un chip miniatura proprio, insomma. Beh, perché deve leggere Bluetooth, per esempio, per la lettura che fa col telefono, col lettore. Adesso smonto anche il coso che ho usato per metterlo. Sì, si usa un po' di cosa, adesso smonto anche questo. Il coso grigio dove che ti serve per infilartelo. Sono comunque è molta, diciamo così, molto spreco, molta vedi, c'è questa cupola dove c'era, dove prendi a lui, te lo metti nel braccio, la devi rampare, c'è un pezzo bianco, aspetta che lo sto prendendo, un pezzo blu, una molla in acciaio, il pezzo grigio, cioè c'è tanta roba che devi buttare via ogni volta. Sì, ma tutto quanto l'hai differenziato, mi ha detto che devo buttare l'infermiera professionale, ha detto non lo buttate nella plastica, devi buttarlo nell'indifferenziato. Mi guarda, c'è un altro pezzo del video di come è fatto quell'altro, cioè che su burro c'è una specie di ago. Beh, lui, io penso che qualche cosa di tifuga ci deve essere, perché quell'affare lì flette, è un pelo che ti entra, ma chi gli fa il passo per entrare ci dovrebbe essere l'ago. Però non senti niente, già, boh. Non senti niente, proprio zero, zero, zero, zero, boh, è un ticchio. E se non ho appiccicato un lunghito zirotto, maledetto, invece col caldo anche, se tu ti lascia cazzo il braccio tutto, per carità, qua. Sì, a me deve essere così, se no ti misci, Ma ci ho messo anche il cucerotto, se no, c'è anche Zoff, capito? Dimmi. Anche, soprattutto, ma soprattutto per quando sbatti contro qualcosa. Col cerotto, hai visto che sono fatti, hanno la forma proprio di come sono fatti. No, me lo bongo già, che è molto utile il cerotto. Il cerotto ci mette. Sì, perché sbatti contro qualcosa e rischi che ti si stacca. Ti lavi e devi stare con la paura, io gli butto la pellicola, ma non va bene, capito? Non va bene, mi si cacca, anche se non ce ne vuole, però ma a me non mi convinci. Anche se non c'è niente, però c'è un po' di elettronica, capite? Quello è. Che è meglio ripararlo, metto il cerotto e buonanotte. Sì, ma è fatto in modo che non entri acqua, capito? È, diciamo, impermeabile, perché io me l'ho fatta di luci, le ho fatte diverse e non me ne è mai entrata. Ma se no si brucierebbe subito, sicuramente sono impermeabili. E invece col cerotto almeno non rischio che mi si sta sbattendo contro qualcosa, come appunto è già successo. Capa, adesso vado a prepararmi un impasto per domani. Chiara, c'era Natalino, non si è più sentito, però perlomeno ho sentito la portante con la musica, con la televisione. Natalino, sempre a cuscelli, ma non entra mai su. Lo sto ascoltando. Già sta ascoltando, ma hai visto. Poi manda i messaggi sul telefono, li ascolta, ti visualizza e neanche ti risponde. È proprio, guarda, maleducato. E ne hai tu da aspettare la sua risposta. Oh, campa cavallo. È carattere. Ma adesso che risponde a tutti, perché è così. Se uno mi manda un messaggio su WhatsApp, lo rispondo, che lo guardo e lo faccio un bicchino. Capito? Cappa. Vabbè, dai, vado a farmi un fatto così, adesso tu vado a prendermi la bomba. Qui c'è anche un po' di formaggio di quello più solito che lo usiamo fresco. Facciamo la palla, come facevano i tempi antichi che andavano con la pastetta a pescare. Mia madre me lo raccontava, lui faceva il pane col formaggio, prendeva certe orate. La base diventa diviziati. Dipende cosa li devi mangiare. Io so dei posti dove li mettono il formaggio e prendono le orate, il formaggio a pezzi dell'ama. Io l'unica pastetta che facevo quando andavo a Carpe. Che mi facevo la pastetta, acqua, farina, zucchero, ci mettevo e basta, non ci mettevo altro. Caspita, ma mi bigliavi orate, ma carpe. Però per le orate, magari mettendoci delle alici, sai, delle acciughe che puzzano. Allora prima sai come si andava a pescare, con l'acciughita e con la pastetta, fatta così, fatta col formaggio, più puzzolente era e meglio era. Deve essere proprio formaggio puzzolente, di chi subì a gusto, di quello tipo coi verdi così, di modo che li attirasse dall'odore. E poi ci mettevi il pane e il pane duro lo mettevi a bagno nell'acqua, lo facevi diventare molle, impastavi tutto, farina non ne mettevi, usavi solo il pane impastavi col pane, il formaggio e basta, tutto lì. Poi lo dovevi palpeggiare per un po' di tempo di modo che si induri, va bene, la farina la mettevi alla fine proprio per indurirlo, se vedevi che era troppo molle, capito? E beh, che ce n'è, e ne pescavano pesci, specialmente le sarpe, i mugini, tutto questo pesce qua, li bigliavano anche, come si chiamano, ma adesso non mi viene, non i saraghi, ma vabbè, non mi viene il nome, comunque sono tipo i saraghi, le occhiate, esatto, le occhiate. Sì, ma che si usa molto il pane francese, sarebbero i pancarremi, prendevano, si fanno anche i mugini, perché la mugine fanno così. Vabbè, ciao, dopo già, ciao. Ciao, e quando fate tramenti nei bar, quello che avanza? Sì, quello lì, esatto, non il bordo, proprio il coso. Forse rimane più appiccicoso e dura di più nell'avanza. infatti per noi i cefali veramente presi dai porti così. Dice che funziona anche per gli altri pesci. Sì, adesso dopo, ciao. Cioè, a me i cefali e le salpe sono pesci che non mi sono mai piaciuti. Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno su questi se un bestellino. Ehi, dimmi. Oui. Ciao, già. E beh, Franco, allora. Ma com'è, non la passo a me? Mi ha chiesto poco fa. Sto riparando un carica batterie per l'auto. Quindi ho acceso, poi scaldano un po' i motori. Ehi, vabbè, là. Quindi scendo a farà. Ehi, mi fate le prove, cosa... No, non stavo entrando qui per ciaramidare, ecco cosa. L'ho acceso perché ce l'avevo tutti accesi, perché mi stavo facendo scaldare tutti quanti da quelli che poi ho spento gli altri e ho acceso questo qua solo. Vedi, anche tu già. Tu già ne hai da accendere. E qua ne ho 2, 3, 4, 5. Poi c'è quello della macchina, sono sì. Io al massimo qua ne ho 2. Ma in più accendo anche gli Alfa Lima per scaldare anche loro un po'. Sì, anche io accendo tutto quello che ho. L'accendo, faccio andare un po' di corrente, tanto per mettere in moto i componenti. Ehi, condensatori, almeno caricare. No, l'unico che non accendo forse l'Alfa Lima è il piccolo, quello della CPE, che è il valvolare, quello da molto che non lo accendo. L'altro giorno sarà per il quando c'era quel caldo afoso che non si respirava, sarà 3 giorni fa, 4 giorni fa. Ho acceso l'apparecchio, il Galaxy, e mi segnava solo le ultime 3 cifre, poi si è messo a correre il frequenzimetro, ho toccato quello, spento tutto, l'ho lasciato un po' spento, poi l'ho riacceso e ha funzionato bene. Non so se era qualche cosa termica, qualche smalto termico, che cosa, però poi ha funzionato sempre bene. Questi frequentimetri del Galaxy, tanto quello è il mio, hanno sempre quell'effetto, anche questa a volte si spegne, si riaccende, mancano delle barrette, manca il puntino, ma è così. Sicuramente sono da rivedere tutte le saldature, qualcuna fredda ci deve essere. Ma questo non l'ho mai fatto, Fra, il fatto è quello, non l'ho mai fatto. Qua è sempre fermo 27.075, c'è qualcuno che si lamenta che è a base dei 5, 76, 77, no, questo è sempre 75, fermo, bloccato, non si muove. L'altro giorno è che si è messo a camminare, quando c'era quel caldo, prima si è messo a camminare e poi si sono accese solo gli ultimi tre numeri, dai, quelli lì davanti no. Lo fanno, ce l'hanno proprio di difetto, vedi anche adesso intanto scompare qualche barra, finché non scalda, quando invece va in temperatura si stabilizza un po' e non manca più. E anche, invece in macchina addirittura a volte si sposta di frequenza, perché va su altre frequenze e poi si ristabilizza, anche quello è un difetto. No, questo non l'aveva mai fatto, l'ha fatto solo quella volta lì, poi non l'ha più fatto. E vabbè, sono apparecchi che hanno già i suoi anni, vanno anche troppo bene per quello che, per gli anni che ha. Ma se pensi non ho mai fatto niente, non l'ho mai allineato, niente, infatti già, intanto già mi dicono che sono un po' spostato di frequenza. Ma escono bene, escono benissimo. Ma quello lì allineato, sai cosa fai? Una volta che c'è tempo, telefoni a quello di Coso, di Moro, Albino, e te lo fai allineare. Oppure vado a Vittorio che c'è l'altro, e quindi sì, perché te lo allineo. Sì, te lo conosco di fama, Vittorio, però di persona no. Sì, qualche volta l'ho visto, mi sembra, qualche anno fa. Adesso è un po' che non lo vedo. La batteria ce l'abbiamo Mosca 2, non c'è da sbagliare, da soli abbiamo Mosca 2. Me lo dici se te lo fa subito, perché a me te lo po' lungo, è la verità, però già te lo fa. Se no già entra poco. Se non ce l'ho a disposizione, guai. E se no vado Albino te lo fa, in 2 giorni te lo ritorna. Però dov'è? Non è qua, no, non è in zona. Morone! Invece qui a Sassari forse sarebbe l'ideale, se ce l'hai, anche sono anche un paio di giorni, cioè c'era qua, là non devi viaggiare. Lo so. A me il mio me l'aveva portato Carlo, che l'ha portato e il giorno dopo ti ha dato funzionante. E tu ti sei arreso troppo in fretta, così? Cosa? Quello che c'era Carlo l'hai dato tu, se non sbaglio. Sì, sì, mi ero incazzato da me, c'è stato che l'ho venuto poi me l'ha ridato. Sì, sì, che ora ti ha dato troppo in fretta. Non so, ma qua non c'è nessuno che le aiuta, l'ho portato anche tu, le mie, te non c'ho tempo, questo e quell'altro, in estate magari che c'è meno lavoro, a me non interessava subito, non in estate, capito, è quello. E vabbè, nessuno me l'ha voluto fare, quindi stavo per andare a cassonetti a buttarci, lo credi? No, quello è un sacrilegio quello. Lo stavo facendo davvero, poi mi ha fermato Carlo e mi ha detto, già, portalo a me, te lo compro io. E mi ha dato un tanto. Poi l'ha fatta aggiustare, mi ha detto che era troppo ingombrante per lui, se lo vuoi lui già, la prima persona te l'ha fatta a te, se lo vuoi lui, io ce l'ho aggiustato, tutto adesso va bene. L'ho provato e tutto. Sono andato, dove sei a casa, si sto andando a prenderla. Ma è in gamba Carlo? Sì, sì, una persona come si deve. E vabbè, e comunque dai, l'abbiamo salvato di nuovo. No, anche se dovesse essere cioè, fin di vita, potrebbe servire anche un altro per farne vivere un altro, dai. Ne avevo già regalato uno, avevo regalato uno a... come si chiama? Non a Padre Pio, a Emanuele, te lo ricordo Emanuele? Emanuele, qual era Emanuele? Ponzio Pilato. Ma era morto? Sì, è morto adesso Ponzio Pilato. Sì, le avevo regalato, cioè io le avevo regalato, poi lui ha detto che una cifra simbolica me la voleva dare e mi ha dato qualche cosa. E c'aveva l'alimentatore che faceva rumore e cose, me lo volevo togliere dalle palle, mi stava girando le scatole perché l'avevo portato a aggiustare, gli avevano cambiato un bel pezzo, non ne hanno cavato piedi e non è che sono stato capace a dirmi guarda ne metto un altro di alimentatore via, niente, ha detto che non si poteva aggiustare, allora ho preso e l'ho regalato. Io non ci ho pensato nel momento e l'ho dato. Sì, dai. No, queste cose mi hanno sempre trattati due volte prima di buttarle. Quando l'ho preso io questo valvolare, lo stesso era in una cantina, lo stavano prendendo, ma ormai hanno avuto un consenso di vendere, insieme a un aspirapolvere mi sembra che fosse. E ho detto, no, dammi solo questo valvolare, questo... Sì, guarda che funziona, mi ha provato addirittura, era tentante, non scacciare, gli ho detto che si brucia tutto. L'ho provato all'inizio, non funzionava, poi ho smontato tutto, la serie di valvole, un po' di spray per contatti, ho rinfilato tutto, un paio di scariche di accertamento e grazie a Dio sta ancora andando. Quale il valvolare? Questo James Truni, che è anni 60, non so che anno sia, boh. Giovanno, praticamente le valvole sono, diciamo, cariche completamente. Chi lo sa, boh, non ne ho io strumento per... ho visto che esce con 4 watt, ma penso che sia quella la potenza, 4, 4 e mezzo. Ah, non è un lineare. No, è da un apparecchio, un 40 canali, della Gemtronic. E com'è in base? Sì, molto pesante, dentro deve vedere cosa c'è dentro, madonna, di componentistica, all'epoca era roba buona, roba seria, oggi apri un baracchino, non c'è nulla dentro, non si capisce neanche come faccia a funzionare. Lo so, però fanno molte cose adesso, cosa che prima non riuscivi a fare, c'hanno diverse funzioni, diverse cose, e invece escono anche bene, quelle che ha preso Marco Condo, l'ultimo che ha preso, esce benissimo, anche col microfono normale sembra amplificato. E cosa ha preso perché? Ma quello che c'ha... come si chiama? Natalino? Mi pare di sì, mi pare che sia quello. Quelli a Nitone, no, sono forti quelli, escono bene. No, non è Nitone, è un'altra marca, mi sa, però che c'ha Marco, però va bene, esce bene, anche se c'ha i componenti, diciamo, di quelli miniatura, che ci vuole la lente per aggiustare, lo sono tutti qua che lo fanno. Ma mi sono riuscito a aprirlo, no, non esce fuori. che provo a togliere fuori i componenti, la scheda. E che cosa c'ha questo caricabatterie? Praticamente ha perso, hai visto il violino che c'è nella punta, quello che tocca il positivo nella presa della Cine Cigari. Quello lì ha perso. Voglio vedere se riesco a mettere qualche cosa di metallo, visto per fare il contatto nella presa. Addirittura c'è la doppia uscita, quella a bassa tensione, cioè quella a 1 ampere e quella da 2,5 per il caricatore veloce, dai, sempre per auto. Ho capito. Adesso vedo un po', forse dobbiamo schiacciare le alette per venire fuori. Ah, non è tuo questo caricavati? No, è di un collega, Ho detto, ce la stavo buttando, ho detto dai, mi faccio un paio di ore stasera. Vabbè, magari riesci a metterle là. Se riesco a sfilarlo, sicuramente è così, però, perché già si muove un po'. Ah, che poi non l'ha neanche perso, il fiorino era dentro. Ho trovato anche il fiorino. Ma è rotto. No, c'era entrato dentro, non so perché. Forse la molla si è un po' svenata, la molla. Magari ne la tiri la molla, di modo che riprenda la sua... Te la tiri un po'. Sì, gliela allungo un po'. No, devo riuscire a togliere fuori tutta la scheda. Cos'è? È un'impresa ardua. Dillo mio, fatta è. Sotto? Sì, sta venendo fuori, già a metà. Mamma diceva sempre volere e potere, ci uno si vuole a fare le cose, per dire. Era un po' di buona volontà e pazienza, ci vuole. Diciamo che non è da tutti la pazienza, Sì, la molla si è piegata su se stessa, quindi non era più dritta. Si è fatta storta la molla e il piolino si è entrato dentro, la molla è tutta schiacciata. E non c'hai qualche molla da sostituire? Adesso guardo se ci sta qualche molla di una penna, Perché è così piccola è la molla? Sino con una pizza larghissimi. No, ma è anche risaldato, Sì, si è rotta, cioè, quella molla era saldata alla scheda, quindi ci vuole anche il saldatore, ci vuole. La cosa più macchinosa, dai. Bisogna vedere se riesce a saldarla adesso. Secondo il materiale che non ce la fa. Come? Ho detto, secondo di che materiale è la molla, non ce la fai a saldarla. Sì, c'è anche odore di bruciato, magari gli è andato anche in corto, c'è una puzza strana dentro. Allora era pazzino, l'ho tutto a pintare in basso. Vado un po' alla luce a vedere. È capace, sì, che sia un tratto in corto. Sì, c'è anche un condensatore che è un po' nero, con una resistenza, poi non vedo. La lente di ingrandimento ci vuole. Ma ne vale la pena di sostituire questi picchi? No, se non funziona il rampo. Se riesco a saldare con qualcosina lì, bisogna provarlo. No, non adesso, potrei non buscare una molla prima. Quando lo attacchi a lontanarti. No, lo faccio provare, ho anche un alimentatore qua. Posso provarlo, ho un alimentatore con la presa. Mai mi brucia l'alimentatore, mi brucia. Infatti, perché te lo dico per esperienza, una volta mi c'era bruciato l'alimentatore e non so se ti ricordi il rosa verde, mi ha detto vedi che te ne do uno autocostruito che c'ho io, che è una bomba, te l'ho presto, poi quando te lo ricompri, perché non si fa malachino. Beh, fatto sta, sono andato, me l'ho preso e malato senza coperchio. Si vedevano tutti i componenti, tutto quanto. Mi ha detto, tu l'unica cosa che devi fare è non metterci le mani, poi per il resto va bene. Cazzo, attacco questo, come stavo attaccando la spina, cazzo, è scoppiata la spina, boom! Mi ha fatto tutta la mano nera, mi ha dato la scossa, mi ha fatto tutta la mano nera. No, ti ha avvisato, te. Ti ha detto che era una bomba, no? Avvio. Ha detto guarda che non funziona questo alimentatore, come non funziona, l'ho costruito io, era un ingegnere lui, di elettronica, non so che cosa, era laureato, però sicuramente con l'andare del tempo, non lo so, qualche cosa è successo, io l'ho solo attaccato, ho fatto PUM! È stata una battuta, però già è così, era proprio una bomba. Cazzo, mi ha susso che mi ha giubilato, la mano tutta lei la mano. Devo cambiare, un attimo cambio gli occhiali, che questi sono i vecchi. Sai quanti ne ho rotto una settimana di occhiali, tre paia. Poi i miei costano parecchio. Mi ho rovinato un paio facendo una scorta a un locomotore, perché la sabbia che volava dal carro mi ha mitragliato le lenti e me le ha fatte così, tutte opache, non ci vedeva più. Ci ho buttato 400 euro di lenti. No, no, io i miei non costano niente, perché io me li compro in farmacia, li pago 9,90 l'uno. Però adesso ho trovato un tipo dai cinesi che sono con la montatura in ottone. E quelli durano, questi qui sono veramente buoni, si rompevano sempre la stecca. No, i miei sono sia per vicino che per lontano, poi gli occhi sono anche diversi, ho dei problemi diversi uno dall'altro, gradi diversi, quindi per forza devo farli da un ottico, dai. No, io da lontano ho 10-10, ho 10-10 verso degli occhi, l'ho fatta una settimana fa la visita. 10-10 verso degli occhi, quindi già vedo bene. È da vicino che mi frega. Ho iniziato prima da vicino e poi adesso un po' anche da lontano. Sono un po' astigmatico, un po' più da cielo. Mio però. Ma non mi ricordo l'altro problema qual è. Io addirittura ho fatto fundus oculo, proprio per vedere il fondo dell'occhio, per vedere se c'è la retinite diabetica, ma ecco, lì è sanissimo, non c'ha nulla. Meglio, dai, un attimo che vado a fare gli occhiali. Io vado in bagno un attimo. Hai trovato, fra? Stavo cercando l'adattatore per il saldatore. Adesso cerco qualche molla piccolina. E guarda, se la tu la sostituisci così almeno, se non c'è altro, ma se c'è altro, è tutto lavoro fatto inutilmente. Sì, ma no, non penso che sia tutto visto, però. Sta pagato. Fino a domani. Va bene, dai. Speriamo che riesca a bere. Non è una molla semplice da trovare. Quella della penna è troppo dura. Ebbene, lo fa lo stesso. No, perché se no si stacca dalla saldatura, perché è a sangue, capito? Quindi ci vuole una molla compatibile, che non abbia molta, che non opponga molta resistenza, se no si stacca dalla scheda. Ho capito. E facendoli qualche altro metodo per metterla. Oggi la faccio fissa, senza molla. Gli metto un filo, gli stagno un pezzo di filo, però per ammortizzare cosa le posso mettere dentro? Un po' di gomma, non lo so, non lo so neanche io. Non ce l'ho presente adesso cosa puoi mettere, sto pensando. Beh, ma se ha bisogno di ammortizzare, se li metti in filo non ammortizza, fra. Ma importante che faccia contatto, sì, la molla è importante perché anche se si aletta appena la molla mantiene sempre il contatto, però ci sono quelle le alette laterali che sono abbastanza dure, ma una volta che lo inserisci rimane fermo. Bisogna provare. Prova a farlo così. La molla non si può recuperare, l'altra non si può risaldare. No, come l'ho toccata si è fatta in mille pezzi, era cotta, secondo me gli è andato in corto, ma lo riparo e lo portiamo al burro. È la più sicura, fra, la più sicura. Ma ripeto, per passare un po' di tempo. Per assillarti. Va bene, dai, mantenere un po' di manualità. Sì, certo. Anche io non tanto mi metto a fare qualcosa, dai. Non mi ricordo se cosa ho aggiustato da poco, mi è corso un bel di roba, però ogni tanto qualche cosa la aggiusto anch'io. Ogni tanto qualcosa la sistemo anch'io, dai. Non entra nessuno oggi. Ecco, sono tutti in ferie. Vabbè, siamo a luglio subito. Sì, oggi non ti controllo. Anche questo è passato, bubu. È passato tra l'estate, se Dio vuole. Sta volando. Quando ci vai le figlie? Agosto purtroppo. A me non piace agosto. Cosa fa? All'agosto, anche se a me non piace, dico. Ah, adesso è tutto più caro, c'è un bel di gente, è un casino. No, io le avevo prese a luglio l'ultima volta, sono andato a Roma e sono stati 15 giorni nei dintorni di Roma, lì, Ostia, tocco la zona lì. Niente, ma vero un caso che è barbarino. Sì, purtroppo la signora ce li ha ad agosto. In albergo stavo tutta la notte con la cosa condizionata attaccata. Già pagano gli altri intanto, oh, va bene, tutto pagato. Ciao, infatti. Ti fanno pagare tutto, anche se non la usi te la paghi. È come le tasse dei negozi. Ci riaccapano, se anche non vedono la pagano lo stesso. Allora, aspetta, vado a cercare un po' di stagno, perché qui non è vero, eccolo qua, grazie. Beh, sono curioso come si è parte. Sarà una bomba anche questo. E bisogna vedere tu se carica la batteria, quello è. Beh, no, ormai lo posso anche misurare col tester. Sì, quello sì. Possiamo scaldare un po' il caldatore, vediamo un po'. Fai scaldare. Quella persona non l'hai più sentita? Quale? Quella... Il nome di Teo Lai. Non me lo ricordo di quale canzone stai parlando, Fra. Ehi, quella persona che lavorava, dai, da me, da lui. Ho capito quella canzone, ha detto su, no. E mi stavo prendendo un po' le yo-yo. Allora, abbiamo saldato tutto, spero che sia rimasta contenta, va. No, non l'ho più sentita, quando la sento è solo per... sta cercando di riattaccare, ma via... no, non va bene, dai. Sì. Vabbè, dai, guardate che sia tranquilla. Adesso è quello. Ma non è tranquilla perché sta provocando, capito? Sta rompendo le scatole. Io parlo con noi, dai, nei nostri confronti. Sì. E va penso di sì. Adesso è già contenta che senza fa niente. Va bene, meglio non parlare. Infatti era solo. Senza fare niente. Allora io volevo aspettare. Ho attaccato la fine, ma questo saldatore c'è anche l'interruttore, quindi dovevo anche accendere l'interruttore. Ne avevo da aspettare qua. Ma è saldato? No, aspettavo il scaldato, invece c'era da accendere l'interruttore del saldatore, te l'ha spento. E però com'è ancora freddo? Si è bruciato anche questo, perché l'altro giorno uno mi si era bruciato, quello della party side. E a me quello dei cinesi non mi ha fatto la stessa cosa dell'alimentatore, mi è scoppiato, l'ho attaccato, l'ha presa, pum! Ecco, vediamo, no, questo è quello sempre della party side, però ho preso quello regolabile, con la temperatura regolabile. E anche io ce l'ho con lui. Ce l'ho col tasto però. C'ha il tasto per regolare la temperatura per alzarla. E questo c'ha. E poi dopo un po' è uscito il nuovo modello proprio digitale, che è ancora meglio. Io ce l'ho con la stazione saldante, ma mi è partita. E questa è una cosa del genere, perché la stazione saldante. Conviene prendere più quegli alimentatori normali, ma quei saldatori normali vanno bene. Qui cambi la punta e via. Non so. No, ho anche quello, però mi sembra che sia un 30 watt, non è molto potente. Questo sale un po' di più. Io ne avevo anche una pistola, boh, non riesco più a trovarla, non mi ricordo dove l'ho messa. No, la pistola mi si è sciolta. Io l'avevo presa all'occasione al... come si chiama? Al mercatino delle Pucci. Erano nuove, erano sigillate e tutto con nylon. L'ho presa, mi è venuta una cazzata 10 euro mi pare, 10 o 12 euro, non lo ricordo. L'ho presa e andava anche bene. Sì, quella grossa l'ho avuta anch'io quella lì. Però c'è tutta, si è fusa anche quella. Quella va bene per fare il PL, saldature grosse, capito? Sì, mi sa che ci vuole la pasta salda qua. Ah, io ce l'ho, io la metto sempre. Appena la prendo, va. Sto provando a bloccare il ferulino. Esatto, vediamo che è qui. Per pazienza ci vuole, dai. Scusa se ti sto un po' abbandonando. No, fai, io sono qui. Funziona? ormai. Alla grande. Va bene, facci pagare il lavoro. Era un telefono fermo da moto, quindi a niente ho dovuto aspettare qualche minuto per iniziare la carica. Quindi quando la batteria era troppo a zero. Ma questo qui è un caricabatterie per la macchina o un caricabatterie di quelli per telefono? Per la macchina, per auto, dai, però carica il telefono e c'ha due uscite, una da 1 ampere e una da 2,5 per la carica più veloce, dai, per i telefoni un po' più moderni. Ho capito, dai. Un po' di caricatore. Sì, adesso ci è rimasto un po' di casino, devo mettere a posto. No, ma intanto ti lascio qua perché se non fanno la luce che dovremmo subire, c'è troppo caldo. Ma io ho aperto mia, le finestre si fa bene. Ma la parte dove sono io si apre la finestra, c'entra il sole, c'è ancora il sole. Io ho aperto solo, diciamo, il lato giardino. Poi lui è già nel caldo, capito? In calore mi è andata lì. E allora? Quando arriva l'estate entra in calore. E allora? Anche l'inverno, sempre. Dai, metto un po' di ordine. Ciao Natali, come va? E c'era il camisa, va abbagliato. Ti stava chiamando Luca stasera e non hai risposto. Mi sembra tu lui perché sento il rumore del televisore. No, ho acceso adesso, anzi mi sto apprezzando a mangiare, no. Non me ne vedi gana, faccio un'antenna così, quindi cosa moduli? Non senta nessuno, solo più vicini e buco. Ma sarai messo peggio di me, no? Come? Non sarai messo peggio di me. Peggio di te sono, non l'ho dovuta accendere l'antenna, ce l'ho in terra praticamente. Io c'ho una finestra, non sarà più bassa della mia. È bassissima. E c'è solo un mezzo metro dal tetto. Lo stilo è buco. Infatti c'ho anche stazionario, evito di modulare per questo. No, anche la mia, l'ho detto, la mia la punta arriva alla grondaia. Non so se c'è la vista grande, buco. E meglio ce l'ho attaccata. No, fra, non l'ho vista. Come ce l'hai attaccata? Al muro. È uguale, la mia è guarda, 40 centimetri, tanto della grondaia, il bordo della mantovana. Dai, io un attimino che metto un po' di ordine, sennò un casino qua. Mi stavo vedendo tutti e due, dai, io faccio un corretti. Ciao a tutti. Ciao già, un abbraccio, sempre bene. Vabbè, scusate. Aspetta. Ci sentiamo alle prossime. Ciao Natali, scusate anche voi.